Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari gastronauti e cari radioascoltatori. Ebbene, oggi parleremo sempre di cibo e di vino come al solito, ma ne parleremo in maniera un po' particolare, con un titolo, Lo famo strano. Ecco, non è la battuta alla Verdone, in questo caso si riferisce un po' ai personaggi che introdurremo, che sono bravissimi nel loro settore, macellai, produttori di vino, pasticceri ed altro, ma come dicevo hanno una loro originalità. E allora io voglio cominciare dal primo personaggio e voglio raccontare perché di questo personaggio. Bene, un giorno ero a Loro Piceno, sono passato davanti a un negozio di macelleria e ho visto in vetrina degli indumenti, mutandine, reggiseni fatti con la cotica. Poi ho un po' scostato c'era una tenda e ho visto dietro un banco un signore che al posto del farfallino tradizionale aveva un farfallino fatto con la cotica di maiale. Bene, ho detto entriamo perché sicuramente questo personaggio è da conoscere, soprattutto il macellaio, perché avevo visto in vetrina dei pezzi di carne molto intriganti. E sono entrato e ho sentito, invece di darmi il buongiorno in maniera molto particolare, ho sentito una voce che mi ricordava un grande attore. I peccati della carne si fanno con la carne e non con le ossa. Ecco, avete sentito? Imita perché imita sempre Totò, ma è un bravissimo imitatore. Buongiorno a Beppe Dall'Orso. Buongiorno Davide. Siamo a Loro Piceno, nelle Marche, in provincia di Macerata. E sì. Beppe Dall'Orso viene soprannominato Peppe Cotto e ora vi spiego perché, anzi ci spiega perché. Allora, buongiorno a tutti i radioascoltatori, spero che abbiano passato il primo maggio con delle belle grigliate, della buona carne, delle buone merende che hanno fatto. Come diceva il dottor Paolini, una volta che si entra nella mia macelleria io li accolgo con una fetta di ciavuscolo e il vino cotto, dato che Loro Piceno è il paese di questo vino cotto. Il ciavuscolo tutti lo conoscono, però io lo spiego sempre in una formula un po' ironica. È la perla nominata ma da tutti non mangiata, lo si fa nell'entroterra di una terra assai contenta, si utilizza un buon maiale per renderlo profumato e cordiale, con la carne, quella presa dalla pancia e dalla fesa. Nelle Marche lui è nato ed è il re del salato, lo si mangia con dolce, ciavuscolo, bellezza. Ecco, fermiamoci qui caro Peppe, perché oltre che del ciauscolo e del vincotto con te voglio parlare di un'altra cosa. Tu hai inventato un taglio di carne molto ma molto originale, ce lo vuoi spiegare? Sì, il taglio di carne di cui dice il dottor Paolini è lo scudo piceno. Lo scudo piceno non è senz'altro che un pezzo di carne ricavato dalla mia fantasia. È lo scudo ricopiatto che si gusta con gran tatto, ma che piatto naturale. È de ciccia addormentata sopra l'osso scapolare di una bestia maturata qui vicino a Macerata. Ecco, come avete sentito, perché è originale? Perché oltre a produrre veramente carne ottima, e come dicevo un ottimo ciauscolo, il Peppe Dall'Orso fa tutto in rima baciata, oltre a fare appunto le sculture di lardo. Ma rimani con noi Peppe, perché andiamo anche da un altro personaggio che in fatto di originalità non gli è da meno. Andiamo da Maurizio Rosazza Prin, che è arrivato secondo classificato nella seconda edizione di MasterChef, assieme al suo collega Andrea Marconetti hanno dato vita ha una piccola azienda che si chiama Kissene Food. Ecco, ma Maurizio, ma con questo nome cosa mettete sul mercato? Cosa producete? Ciao Davide, noi siamo partiti col presupposto che in cucina, come abbiamo fatto noi poi nella finale di MasterChef, abbiamo sbagliato in cucina. Con tutta questa tensione che c'è, non bisogna più aver paura di sbagliare. E quindi abbiamo creato tutta una serie di kit per aiutare le persone in cucina, il kit dei sali, dei pepi, delle spezie, il cereal kit dedicato a tutti coloro che si ammazzano in cucina, cioè una sorta di prodotti selezionati che aiutano le persone a avere già una scelta dei prodotti speciali da utilizzare in cucina. Ecco, ma Kissene Food è un nome molto provocatorio, non avete paura che i vostri prodotti non vengano presi in considerazione? Noi abbiamo bisogno di portare un pizzico di divertimento in cucina, quindi basta tensione in cucina e basta aver paura di sbagliare. Noi giriamo facendo corsi a destra e a sinistra per l'Italia, le persone sono terrorizzate da programmi tipo quelli che abbiamo fatto noi. Noi cerchiamo di portare un po' di leggerezza e dire alle persone: signori, se non vi viene la pasta asciutta, chi se ne food. Bene, torniamo un secondo a Peppe Dall'Orso. E voglio chiedere, Peppe, ma queste sculture al lardo, queste sculture appunto fatte con la cotica, cioè, ma ne fai in continuazione? Allora, queste, caro Davide, ne faccio in continuazione perché l'accoglienza, diciamo, mettere queste sculture fatte con le ossa, anche con il lardo, sono belle, accoglienti, danno qualcosa di più di originale, ma fanno vedere anche la mia maestria, oltre a saper tagliare carne, ma saper fare delle sculture con soltanto una sega a nastro, e rigorosamente sono fatte con questa sega a nastro, non è che ho un traforo o qualcosa, no, di legno, come si lavora il legno, scusi. E queste cose, niente, rendono la cosa più creativa, più importante, e in poche parole è una cosa molto molto mia, che il pubblico italiano, gli stranieri che vengono, dicono che ormai è una cosa originale, perché botteghe di questo tipo, quell'accoglienza che io anche metto in questi tagli, in queste mie opere d'arte, è qualcosa di un po' di unico. Ecco, Peppe, voglio tornare un secondo all'aperitivo, il ciauscolo con vincotto. Vuoi spiegare ai nostri radioascoltatori cos'è questa specialità di Loro Piceno, il vincotto? Il vino cotto è un vino, diciamo, è il mosto, il vino che è la riduzione, che poi diventa il mosto bollito per circa 10-12 ore a fuoco diretto sotto. Dopo però il vero vino cotto avviene, il mosto diventa vino cotto in botte, e questo avvenire in botte ha un lungo tempo, come minimo si dice da queste parti che bisogna, per avere già un discreto vino cotto, devono passare come minimo 5-6 anni. Però questo mosto bollito, fuoco diretto molto lentamente, e poi viene messo dentro queste botti e diventa vino cotto una volta come minimo di 5 anni. Poi ci sono tutti i vari tagli che vengono inseriti, altre diciamo bolliture degli anni futuri, però la madre deve essere una madre che come minimo non bisognerebbe toccare questo vino prima di 5-6 anni. Ecco, il ciauscolo invece è un salame che si spalma, si può dire così? Dire così, un salame che si spalma, anche se i miei, avendo una vendita molto slow, non molto lenta, a volte si trovano un pochettino più stagionati, però sono buoni lo stesso, diciamo, è un procedimento solamente di lunga, un po' più di durata di stagionatura. Ecco, il ciauscolo può essere spalmato sul pane o mangiato anche in altro modo? Può essere, io lo accompagno con questo vino cotto su una buona focaccia, su una pizza bianca, su un buon pane. Può essere accompagnato in tanti modi. Poi la fantasia di uno chef, di un cuoco. Bene, bene. Grazie a Peppe Dall'Orso, detto Peppe Cotto di Loro Piceno, e grazie a Maurizio Rosazza Prin di Kissene Food. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, cari amici, cari gastronauti, in viaggio su questi personaggi molto originali ma grandissimi professionisti del loro settore, che bene o male hanno così creato anche dei prodotti molto particolari, che hanno lasciato un segno, stanno lasciando un segno. Allora io voglio andare a Panzano in Chianti. Bene, ormai c'è un personaggio molto noto che è Dario Cecchini. Buongiorno Cecchini. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Eccolo qua, il re della carne. Ma io Dario Cecchini oggi l'ho chiamato anche perché lui ha creato un prodotto che sì, era nella tradizione, come molti sostengono, però diciamo gli ha dato un nome che lo ha fatto diventare noto. Qui sta la sua peculiarità. Dario, raccontaci un po' la storia del tonno del Chianti. Ah, intanto Davide ti devo ringraziare per quando tu ci hai definito noi artigiani originali, perché in questo momento in cui sembra che l'artigiano è un barattolo, un prodotto, l'artigiano è un figlio del Rinascimento, è quello che è curioso, che ha ingegno, che ha voglia. Il tonno del Chianti è nato dalla storia del figlio di un vecchio norcino morto da tanto tempo, che veniva considerato matto nel paese perché era un paese ai confini della Toscana verso l'Umbria, veniva considerato matto dalla gente di questo piccolo paese perché in estate disossava prosciutti, li salava per qualche giorno e li faceva bollire nel vino bianco. Ecco, anch'io all'inizio ho detto ma forse è un matto, poi ho pensato che in antico non c'erano frigoriferi e che quindi c'era bisogno del sale per igienizzare la carne e che il vino bianco, soprattutto nelle nostre zone, in estate aveva qualche problema di fermentazione. Ho detto con due prodotti difficili da mantenere riuscivano a ottenere un'eccezionalità, una cosa geniale che per caso sa di tonno e l'ho battezzato il tonno del Chianti. Ecco, diciamoci la verità, Dario, questo nome lo ha fatto diventare famoso, perché probabilmente, non dico che è solo il nome, perché poi dietro ci vuole anche la qualità, ma se tu non avessi avuto questa creatività, questa originalità in questo nome, probabilmente non avrebbe avuto il successo che ha avuto poi nel tempo. Hai perfettamente ragione, Davide. Il prodotto in origine si chiamava Scamerita sott'olio, dove scamerita nella nostra zona è la coppa fresca di maiale, il taglio del collo. E io ho provato per anni, per 2 o 3 anni, a venderlo come scamerita sott'olio, perché mi garbava di continuare a mantenere la tradizione. Poi ho detto, ma la tradizione la mantengo, il prodotto c'è, per cui diamogli un nome mio e mettiamoci un'impronta che la gente capisce meglio, perché abbinare maiale e olio, anche se olio extravergine d'oliva, in questo caso era olio di girasole perché era più leggero, e poi perché l'olio extravergine è un gioiello, per condirlo dopo, ho detto proviamo, e il tonno del Chianti è stato bingo, come si dice oggi. Bene, rimani con noi perché ora voglio andare da un altro personaggio molto importante nel mondo dell'hotellerie, ma importante anche e soprattutto nel mondo del vino. E lui un giorno ha detto: a me piace condividere tutto, ma lei la vorrei tutta per me. E sapete chi è lei? È la cantina. Buongiorno a Michil Costa. Buongiorno a voi, Bundè, vi saluto dalle Dolomiti. Bene, ma diciamo che la cantina, per il suo stile, come è chiamata? Mahatma? Mahatma Wine? È così? Dalla lingua indiana, grande anima. Mahatma Wine da Mahatma Gandhi, ma permettimi di salutare il mio amico Dario, certo, l'uomo tutta dolcezza, che mi piace così tanto, io mi commuovo ogni volta che lo ascolto, lo vedo poco, a dire il vero, ma quelle poche volte che ci siamo visti, insomma, è un uomo tutta energia ma tutta dolcezza, e come diceva Rudolf Steiner, oggi ogni nostra azione dovrebbe essere pervasa da dolcezze. Sentire Dario Cecchini che ci mette tutto questo entusiasmo nelle cose che fa, insomma è un uomo tutto Mahatma, tutto grande animo. Ma tu non sei da meno, perché io dico che chi visita la tua cantina, cioè, rimane un po', come posso dire, allibito, ma in senso positivo, dice: ma come ha fatto a inventarsi una cosa di questo genere? Cioè, ma ce la puoi un po' descrivere? Ma la cantina Mahatma Wine, sì, hai detto una cosa molto giusta, l'ho fatta per me, non è nata come percorso estetico. L'ho voluta così perché ho voluto il vino come vita pura, il vino come gioia, il vino che si evolve, il coinvolgimento di me stesso, di un pezzo della mia vita che appunto ho messo lì in cantina. A me succede molto spesso che gli ospiti mi dicono: ah, ma secondo me Frank Zappa nella cantina del Borgogna non ci sta mica tanto bene. E io poi ti rispondo: ma la cantina non l'ho mica fatta per gli ospiti e tanto meno per i clienti. Ognuno di noi ha l'ospite che si merita. Ecco, ha nominato Frank Zappa perché la sua cantina c'è anche molta musica. Ad esempio le bollicine ballano al ritmo di Singing in the Rain. Quindi diciamo, ecco perché questa cantina, oltre ad avere dei valori veramente incredibili, perché chi ama il Sassicaia non può non andarsi a inginocchiare di fronte al 1968. Beh, scusate l'impertinenza se ho detto inginocchiare, ma in realtà è così, perché sicuramente c'è da inginocchiarsi. Quindi credo che la cantina sia un fatto veramente da percorrere, pensare alla qualità del vino, ma soprattutto all'originalità di ogni stanza. Sì, succedono tante cose, ci sono delle installazioni video, ci sono le bottiglie che ballano, ci sono i Ramones con Judy Zapunk, c'è, che ne so, nell'animo degli uomini gli dei hanno creato cielo e terra in miniatura, c'è scritto nella cantina dei vini bianchi, c'è Indian Summer, ovviamente nei Magnum, perché insomma i Doors erano molto c'è il vento di Bolgheri, la sabbia di Bolgheri, la terra di Bolgheri, sì. Quindi ci sono tantissime. Rimani con noi, Michil, perché ora voglio andare ancora da un terzo che abbiamo ora in linea, che secondo me anche questo originale fino in fondo. Buongiorno a Giorgio Poeta. Buongiorno a voi. Già il cognome secondo me è già abbastanza significativo. Ma mi dice lei come ha fatto a inventarsi il miele in barrique? Già dal cognome uno può capire un po' anche il mio animo. Ma il discorso del miele in barrique si ricollega un po' a quanto già avete detto con il signor produttore di vino, perché quello che manca nel mio campo, cioè nel campo apistico, è quello di creare stupore e scalpore magari con dei prodotti che vadano a differenziarsi un po' sul mercato. Quindi l'idea è nata essenzialmente per dare un valore aggiunto a un prodotto che di per sé è definito povero, cioè il miele, e quindi cosa c'è di meglio che avvicinare un mondo povero a uno molto più ricco, non solo economicamente parlando, ma anche di storia e di cultura, se mi posso permettere, come quello del vino. E quindi qui nasce la voglia di creare valore aggiunto. E come l'ho trovata? L'ho trovata utilizzando delle barrique di botti di rovere da 225 litri per effettuare un invecchiamento tramite il metodo Solera, e quindi quello che ho creato dopo 9 mesi di invecchiamento è l'unico miele di acacia al mondo che viene invecchiato in barrique di rovere. Ecco, senta Poeta, ma la gente ha recepito questa sua, diciamo, originalità, questo suo sforzo, questo lavoro anche di creatività? Sì, ci è voluto tempo, ci sono passati 2 anni da quando è stato lanciato sul mercato. Diciamo che il mercato italiano, ma soprattutto quello estero, hanno risposto in maniera importante, tanto da permettermi di fare degli investimenti per un nuovo laboratorio. Ho fatto un altro laboratorio da 150 metri quadri e ho aumentato il numero delle arnie, che tuttora si aggirano intorno alle 350, e adesso provo a vivere di questo. Non è facile, io e mia moglie ci impegniamo molto tutti i giorni, 12 ore al giorno. Anche noi, tramite della buonissima musica, siamo qua sempre in laboratorio a produrre soprattutto nuove idee. Ecco, siccome il suo cognome è Poeta e siccome Dario Cecchini è un cantore di Dante, io non posso non chiedergli almeno così un pezzetto, anche se abbiamo poco tempo, di Dante. Benissimo, volevo solo salutare Michil, che io considero un amico carissimo e un padre spirituale delle montagne. Ecco. La cantina è il risultato, ma l'opera è lui, certo. Matma, umano, è veramente lui. E volevo dedicare a Michil e a voi un motto toscano che io trovo bellissimo sul vino, che dice: addio la gloria, all'uomo il vino. Vabbè, non male, ma ce lo dice un pezzetto di Dante. Un pezzetto alla fine di quest'aprile, la fine del quinto canto dell'inferno, il coronamento dell'amore di Paolo e Francesca. Noi leggiavamo: un giorno per diletto, di lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me mi fia diviso, la bocca mi baciò, tutto tremante. Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse? Da quel giorno più ve ne leggemmo avante, mentre che lo spirito questo disse l'altro piagnea, sì che di pietade io venni men, così come io morisse, e catti come corpo morto cade. Bene, io ringrazio Dario Cecchini, e qualcuno potrebbe pensare che lui stesse leggendo, non è così. Dario Cecchini conosce la Divina Commedia come pochi a memoria e io credo che la recita ancora meglio di Benigni. Pensate un po'. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, cari gastronauti. Ebbene, prima di proseguire con i nostri personaggi, devo fare una precisazione, puntualizzazione, oppure denuncia, chiamiamola così. Ebbene, su TripAdvisor, di cui io ho discusso più volte, continuano ad apparire delle recensioni completamente false a nome Radio 24 Paolini. Ebbene, allora io invito tutti i ristoratori, e io ne ho contate ben 33 che sono già state fatte e altre probabilmente continuano ad esserci in giro per l'Italia, di denunciare questo fatto. Sono completamente fasulle, ora abbiamo dato in mano il tutto a un legale che procederà ovviamente, perché le persone che si stanno firmando come Radio 24 Paolini sono sicuramente dei falsari. Quindi, detto questo, riprendiamo il nostro viaggio tra lo famo strano, come ho detto prima, ma diciamo che i personaggi di cui parliamo, di cui stiamo parlando, meritano anche magari una bellissima canzone. Ma che ce frega, ma che ci importa, se lo stravino ci ha messo l'acqua. E noi edimo, e noi famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo. Ma però noi siamo quelli che gli rispondemo in cuore. Bene, signori, stiamo parlando appunto di mangiare, ma non stiamo parlando anche in maniera sì professionale, perché come dicevo i personaggi sono tutti dei grandi professionisti del cibo o del vino, ma sono anche dei personaggi molto, molto singolari, e uno di questi è anche Ivan Albertelli dell'Osteria da Ivan a Fontanella di Rocca Bianca. Buongiorno Ivan. Buongiorno. Allora buongiorno, Ivan. Paolo. Buongiorno Ivan, ma cosa ti sei inventato con questa salumoterapia? Cos'è la salumoterapia? Te lo spiego in breve. Praticamente è un percorso sensoriale. Mi è venuto in mente circa 4 anni fa, quando ero su in Champagne, questa marnoterapia ho letto, poi dopo sapevo cioccolatoterapia, vinoterapia, così ho detto perché non salumoterapia? Al che io mi sono registrato il marchio e poi ho cominciato a selezionare prodotti di eccellenza della mia terra e non solo. E poi chiaramente dovevo creare un rituale, perché come sai il rituale è quello che fa ricordare una cosa, allora perché non fare delle inalazioni con i salumi? Perciò nella prima sala di salumoterapia, che è nella cantina del mio locale, ho creato questa situazione dove io ti preparo un piatto di salumi e poi ti metto un lenzuolo sopra e tu fai le inalazioni con i salumi. Chiaramente è un percorso sensoriale, perché ci sono tutti i sensi che sono coinvolti: l'aspetto visivo del prodotto, l'aspetto olfattivo e poi chiaramente l'aspetto degustativo. Quindi tu sei veramente un medico, cioè la tua... Sono un salumoterapeuta. Sì, salumoterapeuta e la tua è una clinica della salute. Una clinica della salute, non so se faccia bene al fisico proprio, però sicuramente allo spirito sì. Certo, quindi hai ragione tu, si va in certe cliniche a pagare per non mangiare, almeno da te si paga e si mangia. Giusto, è così. Ma poi soprattutto pensa uno quando è depresso, che si siede nel lettino di uno psicologo, tu invece vieni dentro da me, ti faccio bere le bollicine italiane, francesi, ti faccio degustare grandi salumi, dei grandi formaggi. E poi tutto quello che ci può essere chiaramente di eccellente, io non li conosco tutti, però quelli che sono i miei fornitori cerco di esaltarli al meglio in quel momento lì. Senti Ivan, ma qualche volta non ti capita qualche medico salutista che viene a trovarti? Guarda, ti racconto una storia stranissima. Una volta avevo dei ragazzi qua che stavano facendo una ripresa nella bassa qua Parmense per un cantante famoso eccetera eccetera, e sta facendo il suo video. Allora che c'era un vegano, allora hanno fatto 3 giorni dentro la sala di salumoterapia, costui al terzo giorno siamo riusciti a convertirlo, diceva beh proprio però vegano non lo sono, si è abbuffato veramente di roba, veramente. Bene, rimani con noi perché poi torneremo fra poco, ma ora vado da un altro personaggio abbastanza singolare perché anche lui in fatto di nomi non è da meno, nonostante sia un produttore molto serio di tutto quello che riguarda l'oca, e vado a Mortara, dal titolare della corte dell'oca appunto, da Gioacchino Palestro. Buongiorno Gioacchino. Buongiorno Davide. Senti Gioacchino, ma spieghiamo ai nostri radioascoltatori, visto che abbiamo parlato prima di, appunto, di salumoterapia, prima ancora abbiamo parlato di cantine particolari, tu ti sei inventato il salume ecumenico. Ma il salame ecumenico, scusa, ma cos'è il salame ecumenico? Il salame ecumenico è l'unico insaccato che può mettere d'accordo le tre religioni monoteiste, che è fatto solo ed esclusivamente d'oca, kasher. Quindi tu con questo sistemi tutti, insomma, tutti lo possono mangiare? Esattamente. Ma come ti è venuta questa idea? Ma no, beh, non è che siamo andati a riscoprire le grandi vecchie tradizioni ebraiche. Ah, è perché Mortara è un centro, sì. È un centro, appunto, lo sviluppo dell'oca, della produzione d'oca è avvenuto proprio perché tanti anni fa c'era una comunità importante ebraica. Nel 1960 per l'esattezza. Ecco. E tu sei andato a riscoprire questo fatto del salame ecumenico? Sì, del salame ecumenico, perché, ribadisco, l'unico, essendo fatto interamente di carne d'oca e essendo il maiale vietato alla legge biblica, l'oca è il loro surrogato praticamente. Certo, ma tu ti sei inventato anche un'altra cosa, che diciamo facendo concorrenza ai francesi, che è il ficatum. Sì. Spiegaci anche questo. Il ficatum, diciamo, anche qui siamo andati a riscoprire le grandi vecchie tradizioni romane, perché il fegato d'oca è un prodotto italiano, era già famoso ai tempi dell'impero romano, lo iecur ficatum, che queste oche venivano ingrassate a fichi secchi. E quindi tu le hai riproposte? Sì, sì. Le hai riproposte e hai fatto una guerra ai francesi perché non lo chiami fegato d'oca, ma lo chiami ficatum, è così? Esatto, fegato d'oca di Mortara, ficatum. Ecco, a Mortara c'è una grande tradizione e c'è una grande festa sull'oca. Esattamente, sempre l'ultima domenica di settembre c'è la sagra del salame d'oca, ma la sagra dell'oca, che da lì inizia la stagione dell'oca, che prosegue per tutto l'inverno e primavera inoltrata. Praticamente perché la grande storia dell'oca, proprio il culmine è fine ottobre, novembre, dicembre, metà gennaio. Lì è proprio, siamo proprio, diciamo, al clou dell'oca. Ecco, senti, un'ultima cosa ti volevo chiedere, ma poi rimani ancora con noi. Per quanto riguarda appunto la produzione di oca, dell'oca non si butta via niente, come il maiale. Come il maiale, esatto. Anzi, l'oca dà qualcosa in più del maiale. Cosa sono le penne per fare... Il piumino, non piumino. Le penne, il piumino, piumino d'oca. Quindi veramente si produce... mi è venuto in mente, tu hai inventato anche un'altra cosa interessante che fa bene al fegato, che è quella il pane con i ciccioli d'oca dentro. C'è il pane e la focaccia con ciccioli d'oca. Quindi è un prodotto molto leggero, cioè oltre uno a mangiare l'oca, mangia anche il pane. Ma io voglio chiedere al nostro amico Ivan, io credo che sia interessante nella salumoterapia portare anche questo pane con i ciccioli d'oca. Ma sì, indubbiamente. Tutto quello che è abbondanza è roba grassa, così ci vuole, perché sennò come facciamo a far lavorare anche quegli altri medici? Sai, noi siamo un po' particolari, cerchiamo di far star bene la gente mentalmente, poi è logico che un qualche disturbino, magari il colesterolo un po' alto, così potrebbe esserci, ma sì, ma l'importante non è abusarne della salumoterapia, non bisogna abusarne, ogni tanto si può fare. Senta, ma mi dicono che da lei si possono fare anche massaggi con il lardo? No, a dire il vero, quella lì era una cosa che è saltata fuori dopo una giornata di salam session tra giornalisti. Ti puoi immaginare cosa può succedere tra giornalisti e amici. A un certo orario sono saltate fuori le cose più strane: massaggio al lardo, la maschera di mortadella che non fa bene alla pelle ma è un antidepressivo, il prosciutto, impacco di prosciutto per i gambi del tennista. Che poi è saltato fuori tutto. Un amico ha scritto di queste cose e è saltato fuori di tutto nel mondo. Ecco, cos'è per il tennista, non per il gomito del prosciutto, tennista? Prosciutto per fai praticamente una benda con il prosciutto. Senta, ma si beve anche nella salumoterapia? Sì, la salumoterapia, diciamo che l'ideale per la salumoterapia sono le bollicine, italiane o francesi. So che non si dice bollicine, però io sono abituato a chiamarle bollicine. No, ma chiamiamole in barba Maurizio Zanella. Maurizio Zanella di Chia del Bosco. Bollicine di Francia Corta, io dico, va bene. Ecco, invece io torno dal nostro amico, io lo chiamo sempre domatore di oche, lui si arrabbia quando gli dico domatore di oche, perché lui parla con le oche. Gioacchino, tu ci parli con le oche? Certo. Ma cosa gli racconti? Beh, le storielle, come loro le raccontano a me, io le racconto loro. Comunque è un animale incredibile. bisognerebbe tra poco andare in mezzo loro, in giro per le cascine e farsi seguire. E poi le parli assieme, le racconti tutte le storielle che vuoi. E loro ti seguono? Loro? Tu vai in giro con un pezzo di pane, ti seguono in una maniera straordinaria. Senti, ma gli ultimi divieti sul ficatum o sul foie gras hanno colpito la produzione di questo prodotto? No, perché noi non facciamo gavage. Ecco, spiega cos'è il gavage ai nostri radioascoltatori. È l'alimentazione forzata, noi non la facciamo. L'animale cresce da solo, cioè mangia da solo. Non dimentichiamoci che l'oca è attila, eh. L'oca 24 ore su 24 lei mangia, eh. Ma mangia sempre tutto. Tutto. Sì, quindi non esiste più l'ingozzamento. No, noi non l'abbiamo mai fatto, noi qui, nella nostra zona qui. Quindi era solamente una pratica del becchinage in Francia, insomma. Diciamo, è un sistema per accorciare i tempi. Ok, e fare il fegato molto più grande, no? È così. Sì, il fegato molto più grande, però a differenza del nostro non ha struttura, perché essendo una cosa troppo forzata non ha struttura, mentre il nostro viene fatto, l'alimentazione viene fatta graduale e il fegato si ingrossa piano piano ma tiene tutta la sua struttura. Bene. Io ringrazio Gioacchino Palestro per il salame ecumenico e il ficatum e Ivan Albertelli dell'Osteria Ivan da Fontanelle di Roccabianca per la sua salumoterapia. Grazie e a presto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in viaggio. Siamo in viaggio, un viaggio molto bizzarro, lo abbiamo definito, nel mondo del cibo e del vino. Ma ora ho con noi un personaggio veramente importante del mondo del vino, uno riconosciuto per le sue grandi conoscenze, ma non solo, è conosciuto anche perché è un personaggio molto molto originale, un'originalità. Va in giro con una scarpa tennis di un colore e una di un altro, quindi è con dei corpetti veramente che si fa fare su misura, da lui studiati, molto molto molto divertenti. Ma io voglio introdurlo così, questo nostro amico. Abbiamo con noi Mauro Lorenzon, che è un oste con la O maiuscola. O maiuscola perché tra l'altro è stato inventore delle enoteche. E poi lui sostiene sempre, ha sostenuto in un libro, che osti si nasce. È così, Mauro? Sì, infatti mi definisco Lorenzon, che fa rima con l'oste del Vimbon. Effettivamente oste si nasce, ma si può anche diventare per passione. Io purtroppo lo nacqui, come diceva Totò, perché la mia famiglia ha sempre avuto osterie, ristoranti eccetera eccetera, e comunque l'importante è l'approccio col vino, che sia un approccio non proprio così eccessivamente professionale, perché altrimenti il vino spaventa, il vino va bevuto. Infatti quando qualcuno mi chiede una consulenza e mi chiede quanto vale una tal bottiglia di Dom dell'anno, del un certo Krug di un certo anno, io dispondo. Ecco, quando mi chiedono quanto vale, io dico vale la pena di berlo. senza ostentare. Senti Mauro, ma tu ti sei inventato questo nome enoteche, che è molto importante per caratterizzarlo dalle enoteche, ma tu forse hai visto giusto, perché il mondo sta andando in questa direzione. Sì, il futuro è nella miscita. Effettivamente anche negli anni 80, che il nostro caro amico Veronelli informava le sue guide, le enoteche, e andavi per esempio, non so, a Bergamo, alla Cascinetta o da altre parti, chiedevi, andavi lì per bere un calice di vino, ma dicevi no, noi abbiamo solo vino per asporto. Ma allora qual è che si chiama enoteca? Quella che dà per asporto, quindi la bottiglieria, o la miscita? Ecco, io ho pensato che da un gioco semiserio della grottologia e della, diciamo, del gioco semantico delle parole, di ricavare dal greco onoike, casa, dimora del vino, dove il vino ha confidenza col bicchiere, e questo termine che deriva dal greco onoike, casa, dimora del vino, dove il vino ha confidenza col bicchiere. Infatti il nostro simbolo rispetto alla bottiglieria è il cavatappi, cioè è l'azione che l'oste fa ogni volta per mescere. Il termine giusto a mio avviso sarebbe la lingua italiana, la mescita, che non si può mescere una birra, la mescita è rivolta al vino. Ecco, io credo veramente che ci sia, l'ho detto prima, un grande ritorno, si comincia a vedere in giro, ma speriamo che il vino, molti col vino o il vino sfuso, ma non è più un vino sfuso di un tempo, cioè la qualità del vino sia tenuta alta, Lorenzo. Sì, questo è importantissimo. Poi per dirti, anche dal primo anno che ci siamo costituiti, che era il 2000, Enoiteche, quindi Mescite, comunque abbiamo avuto un attimo di ritorno anche alle origini del termine Enoteca e abbiamo collaborato e abbiamo, anzi, siamo confederati con l'associazione più vecchia della nostra, che si chiama Vinarius, che appunto raggruppa tutte le bottiglierie e di cui sono anche il vicepresidente. E quindi Enoiteche, cioè Mescite e bottiglierie si sono abbinate e quindi facciamo un gruppo unico e rispettiamo un decalogo di comportamento. Le Enoiteche, che hanno 10 comandamenti, devono stappare, potrebbero schiamarsi stapoteche, e le bottiglierie che si chiamano Vinarius hanno anche loro una deontologia da rispettare e di solo vini di qualità e di cui l'80% deve essere di produttori diretti, quindi vitivinicoltori, e quindi vino di chiara qualità, di chiara tracciabilità. Stiamo facendo adesso una battaglia anche per questa cosa, che andrò io personalmente anche a Firenze a partecipare a un convegno di produttori senza solfiti, ma non è questo di essere pradini con o proprio senza solfiti, è quello che il vino è l'unico alimento che non è obbligatorio scrivere gli ingredienti. Questo è uno scandalo, certo. Perché le lobby diciamo europee industriali bloccano questo progetto, che è stato un progetto anche del ministro della sanità europeo. Bene, rimani con noi. Questa è una battaglia che dobbiamo fare. Rimani con noi perché ora andiamo nelle vicinanze di Torriana, Sant'Arcangelo, Torriana, Rimini. Andiamo da un personaggio che, diciamo, negli ultimi tempi ne sento parlare un po' da tutti, da ristoratori, da appassionati, ed è Giovanni Baldinini, e che è soprannominato l'alchimista. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti voi. Giovanni, ma le sue bottiglie le vedo, cioè tutti le tengono come devo dire, un bene prezioso, ma cosa ci mette dentro quelle bottiglie? Perché si definisce alchimista? Beh, a dire la verità, la definizione di alchimista è di questi pochi amici che ricevono le bottiglie, in realtà l'alchimia è una filosofia di vita per me. Ah, ecco, quindi... Ecco, sì, dopo... Il Prego. Discorso principale è che la liporeria è un divertimento, una grande passione, l'alchimia forse è un'altra cosa e si divertono a chiamarmi alchimista. Ecco, ma lei fa praticamente dei vini speziati con, diciamo, delle ricette molto sue, molto particolari. Esatto, sì. Il progetto nasce diversi anni fa e passando dalla profumeria, che è un'altra grande passione della mia vita, e ho cercato di unire queste conoscenze, questa conoscenza nell'ambito della profumeria, di sposarla alla liquoreria, ai vini aromatizzati, cercando di creare dei prodotti nuovi, e non solo concettualmente, ma anche, diciamo, a livello pratico di esecuzione, con delle nuove tecniche per discostarsi, diciamo, da quella che è la storia. Ecco, ma Paracelso c'entra un po' in questi suoi prodotti? Paracelso c'entra perché sembra, sì, effettivamente uno dei padri dell'alchimia. Certo. Quindi, ed anche della profumeria, perché diciamo che lo studio delle molecole aromatiche è antico tanto quanto l'uomo, probabilmente. Passando dalle più semplici alle più complesse, direi che Paracelso ha la sua importanza, sì. Ecco, ma i suoi, queste, diciamo, sue creazioni molto, molto particolari, mi dicono che vengono usate per cocktail ma anche in cucina. Sì, nell'arco degli anni ho avuto la fortuna di incontrare, di conoscere diversi chef che poi sono diventati amici, che propongono e utilizzano questi prodotti anche a livello di ricerca loro personale, e questo mi piace molto perché io non faccio vendita, sono un appassionato e faccio ricerca, e mi dà la possibilità di incontrare queste persone dal palato e dal naso, direi, importante. Infatti lei non vende queste bottiglie? No, io non faccio vendita. Bene. Non ho mai... Quindi Giovanni, rimanga con noi, io voglio tornare a Mauro Lorenzon, perché devo dire che a Mauro sarà bizzarro in certe cose, ma sul vino non scherza quando si parla di vino, e devo dire che a lui forse aveva visto giusto 20 anni fa sul Prosecco, vero Mauro? Sì, sì, infatti il mio titolo sul Prosecco era "Ricominciamo dal fondo, pescando nel torbido per vederci chiaro", nel senso di dire che il vino meno lo tocchi meglio è, quindi tornare poi indietro mi fa anche dire che se possiamo parlare anche di vini naturali, il Prosecco col fondo, che ha il sistema anche obbligatorio per legge, non può rifermentare soltanto con i lieviti propri, e no, può se funzionare con i lieviti selezionati, ma senza l'aggiunta di zucchero, deve usare zucchero non di canna ma di mosto muto oppure del mosto suo residuo. Quindi anche qui andiamo sulla naturalità e sull'importanza. Mi piace anche il discorso che ha fatto qui il mio preceduto, che non mi ricordo più il nome. Si chiama Giovanni Baldinini. Ecco, io non mi scandalizzo nemmeno quando c'è del vino o delle alchimie, perché il vermouth è la più buona alchimia che ci sia in questo momento nel mondo del vino, anche il Barolo Chinata è una grande alchimia. Quindi unire anche profumi, aromi, erbe e altre cose non è scandaloso. L'importante, come dicevo anche sul vino, è quello degli ingredienti. L'importante è quando mettiamo noi qualcosa in pancia, che beviamo, ingeriamo qualcosa, mettiamo qualcosa sia di cibo che di bevanda, l'importante è essere consapevoli che non ci deve far male, e questo è importante per la salute. Ma chi si accorge della qualità e della genuinità dei prodotti? Non tanto gli assaggiatori ufficiali, anch'io sono dell'AIS, per carità, e delle volte per fare la battuta dico che l'AIS è una malattia perché assaggiano e sputano, io non ho mai sputato. Ah già, tu vorrei, è vero che tu vorresti spazzare via le sputacchiere, vero? Sì, appunto, non ha senso, se devo bere poco, bevo poco, ma devo capire, e poi anche perché il capire con la pancia è più intelligente che capire con la bocca, perché la bocca è soggettiva e dice la pancia è oggettiva. E detto questo, ritorno al discorso della tracciabilità del prodotto e della genuinità, di fare il vino con la minor manipolazione possibile, questa è una Bene. Cosa importante. Sono andato fuori l'argomento, però. No, è importante perché in questo momento il Prosecco col fondo sta specialmente all'ultimo Vinitaly. Ho fatto giusto una gran fondo proprio a Corso Martino, proprio nella Patria, tra Vado Biagio e Conegliano. Ho fatto una gran fondo con una ventina di produttori e sono notevoli cose, anche se sono contrario a quella operazione che ha fatto il nostro ministro Zaia, e non voglio entrare in politica. Io ho fatto un altro articolo contro questo allargamento del Prosecco, che ho detto con la glera Zaia sclera. Bene, beh, tu sei un inventore sicuramente di vocaboli, perché questa gran fondo è una grande novità, quindi una gran fondo col Prosecco. E su questo chiudiamo. Io ringrazio Giovanni Baldinini e ringrazio Mauro Lorenzon dell'Enoteca Mascaretta di Venezia. Andate, perché vedrete aprire le bottiglie con la bocca o con la sciabola, quindi anche questo è uno spettacolo di Mauro Lorenzon. Bene, grazie, io auguro a tutti un buon weekend e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ringrazio Lorenzo, che si è, diciamo, dato molto da fare per poter parlare con questi personaggi, e la regia. Bene, buon weekend a tutti.